Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. SOS furti. A lanciarlo è il Censis, che rileva come in Italia quelli in casa sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni e nel 2013, segnalando una media di un appartamento svaligiato ogni 2 minuti. Lo scorso anno, infatti, i colpi in casa sono stati in media 689 al giorno, cioè 29 ogni ora. La zona più colpita è il nord-ovest, con 92.100 casi nell'ultimo anno, pari al 151% in più rispetto al decennio. Ovviamente i picchi più alti sono nelle grandi città, in testa Milano, dove i furti sono aumentati del 229% tra il 2004 e il 2013, seguita da Firenze a quota 177, Roma più 120% e Bologna con un aumento del 104%. È chiaro che la battuta che più sta circolando, soprattutto nei social network, non ci si può allontanare da casa un minuto, perché se uno sta più di un minuto rischia di entrare nella terribile forbice di questa media, una casa svaligiata ogni 2 minuti. Ora, quello che vogliamo capire questa mattina, visto che la notizia ormai è un paio di giorni che sta circolando in maniera insistente, il titolo è forte, è un lancio che fa riflettere, fa pensare, è se realmente ogni 2 minuti viene svaligiata una casa mediamente in Italia, perché ci sono più ladri, perché ci sono più sistemi di effrazione e più persone desiderose di entrare nelle nostre case, o semplicemente perché le persone finalmente denunciano di più i furti. Capiamo esattamente cosa c'è dietro questa paura della casa svaligiata. 800 24 00 24. Vi è capitato anche voi di avere maggiore apprensione nell'ultimo anno perché qualcuno possa entrare in casa vostra, o realmente avete avuto episodi di effrazione, di ladri in casa, di furti nella vostra casa, a casa del vostro vicino, di persone che conoscevate? 800 24 00 24. Una casa svaligiata ogni 2 minuti. Negli ultimi anni le rapine in casa sono cambiate parecchio. Non è certo una serratura a spaventare chi da tempo ha puntato un appartamento in particolare e sta aspettando il momento giusto per ripulirlo. Key jumping, così si chiama il nuovo modo di svaligiare casa senza scassinare la serratura. È la strategia studiata dai cosiddetti nuovi ladri, topi d'appartamento provenienti per la maggior parte dalla Georgia, appassionati di furti senza scasso. Circa 5 anni vediamo questo tipico modo di, diciamo, aprire senza chiavi. Cioè, in poche parole, tutte le chiavi che vedete lì sopra, lì, quei modelli così, vengono tutti aperti con una tecnica che si chiama manipolazione. La manipolazione georgiana, poi ce ne sono tante altre, figuriamoci, sono strumenti dai nomi innominabili, vengono ormai esposti nei negozi di serrature di sicurezza, tutta una serie di gadget, dice, con questo possono entrare a casa vostra, quindi fatevi la nuova sicurezza, la nuova serratura, il nuovo sistema di controllo, e si vedono orrendi strumenti, metafora, mazze medievali e tubi da intrusione necroscopica. Anna Italia, buongiorno. Buongiorno. Anna Italia, la ricercatrice del Censis, che ha svolto l'indagine pubblicata pochi giorni fa, che sta destando allarme e anche qualcuno la prende anche scherzando, ridendo. Giorgia Meloni ieri ha proprio fatto il tweet, l'ho visto ieri sera, che diceva: ma sono già fuori casa da un minuto, bisogna correre subito a casa. Qualcosa del, o qualcuno rispondeva a lei. Vediamo di capire allora dalla ricercatrice del Censis esattamente cosa emerge di concreto dalla vostra ricerca. Ma diciamo che in parte i dati sono stati già diffusi e commentati, no? Che cosa emerge? Emerge che effettivamente nell'ultimo decennio, a fronte di una criminalità, di un numero di denunce per furti che rimangono sostanzialmente costanti e sostanzialmente omogenee nel tempo, c'è invece questo dato, diciamo, allarmante e anche strabiliante, che è questo del più che raddoppio del numero dei furti in appartamento. Non solo aumentano e raddoppiano i furti in appartamento, ma aumentano anche molto le rapine in appartamento, che sono di meno, ma che sono anche un reato più violento, che implica minaccia, eccetera. È evidente che questo, comunque sia, provoca anche un aumento della percezione di insicurezza della popolazione, tant'è che anche i dati sulla percezione di sicurezza degli italiani tendono a mostrare come gli italiani abbiano, diciamo, un livello di insicurezza che tende a crescere rispetto a quello che può accadere nella propria zona di residenza. Poi, ecco, la gente comune, chi vive in casa, una famiglia media, come vi risulta commentata proprio la percezione che rischiano di più? Da quali sono i segnali? Ma diciamo appunto che c'è, noi più che guardare i segnali guardiamo i dati, quindi diciamo c'è questa indagine multiscopo che fa l'Istat tutti gli anni sulla percezione di sicurezza delle famiglie, che dice che le famiglie hanno più paura della sicurezza della sicurezza, e c'è anche diciamo in controtendenza un po' con i dati sui consumi degli italiani che tendono tutti a scendere, c'è comunque invece un dato diciamo sui consumi sempre di sicurezza, sui negozi che vendono comunque apparecchiature di sicurezza così in crescita, quindi comunque c'è diciamo gli italiani come dicevate anche voi prima si cercano di tutelarsi così, dopodiché hanno di fronte diciamo dei ladri, i ladri non è che sono di più, ma semplicemente sono più professionali, sono dei professionisti, sono delle bande di professionisti che girano anche da zona a zona, quindi non so, che magari gli stessi diciamo girano per province diverse eccetera, che si fanno sempre più specializzati, che diciamo approfittano del fatto che le abitazioni sono sempre più spesso vuote perché la gente lavora, perché è comunque impegnata fuori casa, anche del fatto che comunque sia le spese pubbliche per la sicurezza tendono a diminuire, quindi anche ahimè le forze dell'ordine non riescono a tutelare forse come dovrebbero a tutte le ore Ma è cresciuto l'impegno nel tutelare le proprie abitazioni, sistemi di sicurezza, questo emerge in qualche maniera nella ricerca? Guardi, noi abbiamo visto i consumi di sicurezza, non abbiamo il dato, abbiamo un dato sui negozi che vendono serramente eccetera, che non sembrano soffrire di quella crisi che invece soffre il resto del commercio al dettaglio. Quindi evidentemente la gente si attrezza di più, questo? Da quello sembrerebbe di sì, il problema è che comunque non esiste diciamo strumento che serratura, antinfrazione eccetera, che i ladri non riescano a in qualche modo a infrangere. Sentiamo un attimo il primo ascoltatore, mi scusi dottoressa Anna Italia. Giancarlo, buongiorno. 800 24 0024. Sì, buongiorno Nicoletti. Io confermo senz'altro quello che stava anche dicendo la dottoressa, nel senso che ormai non ci si sente più coperti da qualsiasi sistema si metta in atto, perché le serrature non è come se non ci fossero. L'essere per esempio a un piano alto adesso con i nuovi ladri che sono anche degli acrobati, non ci si sente. Insomma, ma lei come ha provveduto a casa sua? Cosa c'ha? Guardi, l'unica cosa alla quale abbiamo provveduto è di tenere la notte tutte le luci accese esterne. Noi stiamo al quinto piano, all'ultimo piano di una e questo cosa vi salva, la luce accesa? Ma la luce accesa, questa era infatti, faceva parte della domanda che volevo fare. C'è una abitudine qui nel quartiere a tenere nelle terrazze le luci accese, che secondo me non serve assolutamente a niente. Secondo me non serve a un piffo, una vecchia idea delle nostre nonne, dà l'illusione che c'è qualcuno in casa. Questi entrano lo stesso, non rispongono al problema. Questo è il problema, non ci si sente assolutamente protetti. L'unica cosa è vedere di collegarsi alla polizia piuttosto che ai carabinieri con qualche sistema elettronico, ma non mi pare. Comunque alla ricerca sempre di un sistema che salvaguardi. Anna da Milano, grazie Giancarlo. Anna da Milano. Ascolto sempre, mi fa molto piacere. Che le hanno portato via? Dunque, sono venute due volte a rubarmi, alla vigilia di Natale e alla vigilia dell'Epifania. Sempre per le feste comandate, vero? Sempre nelle feste comandate. Io avevo un allarme su tutte le porte, lo hanno naturalmente neutralizzato. Allora ho messo l'allarme su tutti i balconi. Lei ha paura per Pasqua, perché siamo già in metà quaresima, quindi comincia a temere. Senta, comunque io sono convinta, a parte che a questo punto più di tanto non si può fare, vai per comprare una nuova serratura, ti danno dei marchingegni che poi, come ho sentito prima, ormai fanno tutto, per cui io spero semplicemente che ci sia più controllo nelle strade, capisci? Comunque fa parte delle rassegnate, oramai non serve no, per niente. No, non mi sono rassegnata, no. Però sono consapevole che Milano invada da tutte queste persone che hanno fame, tu le incontri, ti curano, io abito nella zona zona di Porta Vittoria, si figuri, di fianco a me c'è ci sono le case dei rom, puoi immaginare. Quindi diciamo è terreno, ma di solito non vanno proprio a rubare vicino dove stanno, cercano di andare. Eppure guardi, a me sono venuti, poi è stato classico, mi ha detto la polizia, che erano dei rom perché non hanno preso l'argento. Vabbè, questa è un'altra leggenda metropolitana. Può essere. Perché hanno più superstizione che l'argento, ma il rame sì e l'argento no. Boh, no, poi rame neanche, tutto oro solo. No, rame, no, rame, le posso assicurare. Vanno a tagliare i cavi delle ferrovie, quindi figuriamoci. Allora, andiamo, fermo un attimo. Marco Ferrarini, buongiorno. Buongiorno. Titolare della Ferrarini SRL di Parma, tratta sistemi di sicurezza per la casa, nostro consulente spesso. Come reagisce a questa sfiducia nei confronti dei sistemi di sicurezza che abbiamo colto in queste due telefonate? Ecco, innanzitutto mi scusi, ma io vorrei rispondere alla signora dicendole che se rinunciamo a tentare di risolvere il problema è chiaro che abbiamo già perso in partenza. E faccio un esempio con l'automotive. Una volta non avevamo neanche le cinture di sicurezza, oggi abbiamo 10 airbag sulla cintura di sicurezza, 8.000 controlli elettronici, è la stessa cosa, le cose vanno avanti. È chiaro che la serratura di 30 anni fa non va più bene, ma neanche quella di 10 anni fa, e a volte non va neanche bene quella dell'anno scorso. Qual è il top in questo momento? Diciamo il top, diciamo la tecnologia perlomeno nei limiti che può avere, cosa offre di più sicuro in questo momento, che al momento non esiste un marchingegno capace di poterlo aprire? Esiste la serratura del genere? Esistono, nel senso che la serratura a cilindro europeo, che attualmente è un po' sulla bocca di tutti, è un po' come dire la serratura classica che vediamo da tutte le parti con la chiave normalissima. Quello che è importante è che il cilindro europeo sia di tipo corazzato, possibilmente con funzionamento radiale, che è una parola molto complicata da probabilmente memorizzare per le persone che non sono del settore, ma che è fondamentale e che abbia un funzionamento pensato proprio per l'antistrappo. Cioè non deve essere attaccato con due vitarelle, tanto per capire, deve essere ancorato all'interno della porta. E deve essere antiperforazione con delle pastiglie speciali carboniturate di materiali molto molto duri che non sono perforabili, quindi si ha, diciamo, la sicurezza la si ottiene da un insieme di componenti che vengono installati sulla porta. Quindi in media ogni quanto bisognerebbe cambiare serratura, perlomeno pensarci? Almeno chiamare un esperto e darci un'occhiata una volta all'anno, buttare un occhio e dire siamo ancora a posto, sì, no, tutto lì, ecco, questo è il fondamentale, perché è chiaro che il ladro che va in banca in casa nostra ci viene come ridere, ma in casa nostra il ladro che va in banca, visto che rischia la stessa pena, non ci viene, va semplicemente in banca. Il 95% dei ladri invece, di cui un 5% sono strutturati e sono organizzati, forse anche un 10%, a poter aprire le serrature con manipolazione, quindi in modo delicato, senza effrazione, senza distruggere la porta. Quelli si vincono esclusivamente restando al passo coi tempi, affidandosi a esperti che fanno la manutenzione annuale, così come siamo abituati a farla nell'automobile, farla anche nella porta. Allora, aspetti Ferrarini, io devo dare le informazioni del traffico, però resti con noi perché ci sono delle domande di tipo tecnico a cui lei può rispondere, ma la domanda che facciamo agli ascoltatori, che possono rispondere tra un istante, è: cosa tenete ancora di valore in casa che vi portano via? Forse il televisore, forse il computer, ma a parte gli elettrodomestici o gli attrezzi, diciamo, di tecnologia consumer, cos'altro piffero tenete di valore in casa che vi vengono a rubare? Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo cercando di trarre qualche altro elemento concreto dopo l'indagine del Censis che ci dice che sono aumentati in maniera considerevole, anzi esponenziali, i furti in appartamento nelle nostre città, addirittura se ne consumerebbe uno ogni due minuti. Abbiamo anche al telefono un esperto in sistemi di sicurezza che ci ha testé ricordato che andrebbe ogni anno perlomeno osservato, fatto vedere il nostro sistema di protezione della casa per vedere se è adeguato alle nuove tecniche di scasso. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Pronto, mi sente? Sì, l'ascolto. Buongiorno, io chiamo da Bari. E ogni due minuti mi sembra una cosa normalissima per, per la mia zona, qui è credo ogni 40 secondi probabilmente. A Bari ogni 40 secondi? No, lo sto dicendo così. Perché sì, come ipotesi. Sì. Cioè se la media nazionale ogni due minuti c'è una città sì. come la nostra che ha maggiore intensità. Sì. È impressionante. Non, addirittura 20 giorni fa a casa di un mio amico, lui era giù in tavernetta e i ladri erano su con la fiamma ossidica a smontargli la cassaforte. Quindi, aspetti, ferma un attimo Angelo. Sapevano che il suo amico aveva una cassaforte in casa, sono andati con una fiamma ossidrica, che non era una cosa da portarsi dietro così facile. Ma sì, sapevano sicuramente, come tanti sanno, forse perché si scrive su Facebook, si usano i social network indubbiamente, ma c'è uno scrive su Facebook ho una cassaforte in casa. Ma no, però probabilmente sì, sui social network si ostentano beni di valore, fai vedere una bella casa, sì, ma, ci guarda quanto sono figo, che bello attrezzo. Sì, sì. Ma al di là di quello, comunque pare ci sia, almeno così c'è una voce di popolo, insomma pare ci sia qui in zona una banda di georgiani che pare siano proprio in gamba nel loro lavoro. Con la fiamma ossidica fanno bei lavori. Ma hanno smontato di tutto e di più, quindi non. Però se mi consente l'ultima cosa, io ritengo che un problema fondamentale sia quello delle pene. Cioè questa gente che se viene pur così beccata sul fatto, alla fine di carcere fa poco quanto nulla. Quindi addirittura sentivo il prefetto l'altro giorno qui a Bari o il questore, non ricordo bene, che siccome pare che abbiano arrestato insomma parecchi della malavita della zona qui, dovrebbero aumentare le estorsioni e i furti in casa perché le famiglie mafiose devono pagare gli avvocati per tirarli fuori. Ah, quindi gli servono più soldi, ma questa è una situazione però diciamo legata a una circostanza geografico-ambientale che lei ben conosce, non credo che in tutta Italia sia così, in tutta Italia che evidentemente cioè, ci sono più persone per strada che vivono di questo mi sembra che sia la cosa probabile. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, io avrei una soluzione diversa, invece che aumentare le serrature potrei anche toglierle. Io chiedo che venga adottata la moneta elettronica ed eliminata la carta moneta. Ma questi rubano oggetti però, non è che rubano soltanto. Ma anche se rubano oggetti, dopo li devono vendere. E quando li vendono senza avere comprato niente, cioè viene colpita pure la ricetta. No, lei dice una cosa interessante, se non esistesse la moneta, diciamo la carta moneta, sarebbe difficile anche ricettare, chi compra? Sarebbe difficile anche ricettare, sì, perché io devo pagare chi ha rubato, e se no quello che ruba fare. E quando lo pago, prendo del materiale, sì, da chi? Cioè, lei che mi capisce la difficoltà tecnica poi di uno che continua a prendere soldi senza fare nulla, cioè un computer, un laboratorio elettronico lo trova subito. No, è molto chiaro, sì, è chiaramente al limite del paradosso, perché comunque sia esisterebbe sempre un mercato e i mercati ormai sono piuttosto aperti. Molte volte io so che gli oggetti di importanza rubati nelle nostre case vengono venduti anche su altri mercati, non è che li trova ai mercatini nelle piazze delle città. Giovanni ha parlato. Guido, buongiorno. Sì. Buongiorno a lei. Allora io chiamo da Trento e ho chiamato giusto per testimoniare il fatto che un annetto fa più o meno sono stato colpito per ben due volte, prima in appartamento, dopodiché ho allarmato l'appartamento, quindi mettendo un allarme perimetrale e volumetrico, e astutamente, probabilmente chi mi teneva sott'occhio, ha colpito poi una seconda volta a distanza di sei mesi cantine e garage, quindi ho riallarmato anche quell'area. Mi tolgo una curiosità, lei cosa aveva di valore in casa che giustificasse un'attenzione così capillare rispetto alla sua abitazione? Guardi, sicuramente non sapevano che cosa avevo in casa, io abito in periferia, in una zona periferica di Trento, probabilmente zona tranquilla, e quindi hanno colpito perché... Cosa le hanno portato via? Lo sa perché voglio capire? Voglio capire se c'è anche un'intelligence legata a queste azioni, o semplicemente vedono magari una bella casa, una bella macchina, dice ma qualcosa sicuramente c'è da portare via. L'appartamento è normalissimo, hanno portato via praticamente quello che hanno trovato, quindi qualche collana, hanno selezionato le cose d'oro piuttosto che d'argento, hanno lasciato i tablet, i cellulari che erano lì in bella mostra. Pensando che sono rintracciabili immediatamente quelli, lo esatto. sanno. Esatto, quindi hanno portato via poi dopo macchina fotografica, mi hanno rubato dalle cantine tutto quello che avevo, bottiglie di vino, cibarie varie, valigie, bottiglie d'olio. Insomma, quindi non necessariamente cose... oggetti di valore, portano via tutto, vuotano casa. Tutto. Questo è interessante. Giovanni, Vigile del Fuoco, buongiorno. Sì, buongiorno. Noi diciamo dobbiamo affrontare il problema opposto, perché spesso e volentieri la gente si dota delle migliori serrature, delle migliori porte corazzate, poi lascia e le chiavi poi dentro. Perde le chiavi. E quindi? E quindi poi chiama noi e ci chiede di riconquistare la loro casa, chiedendoci di fare il miglior danno possibile. Non sempre è facile. E non basta la lastra fotografica in quel caso? No, se non ce l'ha mandata sì, addirittura per assurdo le porte vecchie con la lastra fotografica è difficile da aprirle, invece le nuove si aprono in un attimo. Sì, quello l'ho visto, mi sono anche spaventato una volta che ho visto aprire un istante una porta super corazzata ma senza la mandata, un suo collega in un nanosecondo l'ha aperta e siamo rimasti tutti a bocca aperta per capire, senza la mandata praticamente... Non ho capito, scusi? Senza la mandata è come se non ci fosse la porta. Sì, assolutamente, soprattutto quelle nuove ben lubrificate, un attimo aprirle. Invece le volevo dire, una volta una porta ipercorazzata abbiamo preferito smurarla perché era, alla fine era poi il danno minore per l'utente. Questa è musica per le orecchie di Marco Ferrarini che vende sistemi di sicurezza, quindi qualche volta ci sono delle porte che è difficile aprire. Eh certo, come no, assolutamente difficile aprirle, soprattutto se sono chiuse a chiave. Mettiamola così, una serratura non chiusa a chiave è come la cintura non allacciata. Lei la cintura ce l'ha, ma se non se la allaccia non serve a nulla, è esattamente lo stesso ragionamento. È chiaro che il tempo è quello che è il tiranno in queste cose. I furti durano dai 3 ai 7 minuti tutto compreso. Se noi riusciamo a montare una tipologia di protezione sia sulle finestre che sulle porte, che mi dà un tempo di effrazione, quindi un tempo di distruzione del componente, oppure un tempo di manipolazione, quindi di pressione light delicata, che è superiore ai 5, 6, 7, 8 minuti, non dico che abbiamo la garanzia del non furto, però abbiamo ottime probabilità di riuscire a sventarlo, ottime probabilità di scamparla. E probabilmente riusciamo anche ad accorgerci del passaggio dei ladri. Perché dopo 5-6 minuti se ne vanno se vedono che non riescono a aprire. Beh, cominciano ad aver paura, come tutti quanti dicono. La matematica non è un'opinione. Io in una giornata, se faccio 10 furti da 50 euro l'uno, chi se ne frega di dove salto dentro? Il primo buco aperto che trovo, o il primo buco facile, la prima porta facile da aprire, la apro, entro, la prima finestra facile da forzare con due cacciaviti, apro tutti i cassetti che trovo subito lì, pronti, partenza via, che poi tra l'altro abbiamo tutti la, diciamo, la consuetudine, l'abitudine di mettere le cose negli stessi posti dove nasconderebbe lei, Nicoletti, i soldi. Dentro la pasta, dentro i pacchi della pasta, nei barattoli, quelle cose stupide. Tutti quanti gli utenti farebbero la stessa. In tasca delle giacche, le cose stupide, quelle le vanno subito, quelle le fanno subito. E quindi 448, ecco che trovano le 50, le 100 euro. O quel poco che gli interessa, la macchina fotografica. E hanno fatto incasso, per loro la giornata è fatta. Grazie Ferrarini, alla prossima.